Oggi vertice in procura Berlusconi, meglio le ragazze che essere gay, poi se la prende di nuovo coi giornali. Maltempo, Bertolaso in Veneto, allagamenti nel Padovano oltre 1000, gli sfollati. Negli Stati Uniti il giorno della verità, Obama deve fronteggiare la riscossa dei repubblicani. Rifiuti, ancora scontri a Taverna del Re tra manifestanti e forze dell'ordine. Buongiorno da Alessio Maurizi, benvenuti a questa edizione di GR24 e in apertura notizia di poco fa, Standard & Poor's ha confermato il rating sul conti pubblici italiani, il giudizio resta A+, con prospettive stabili, ma dice Standard & Poor's i rischi potrebbero venire dall'instabilità politica italiana. E di questo parleremo tra poco, prima però la politica con il caso Ruby che non molla alla presa, perché mentre a Palermo spunta una nuova inchiesta, ne parleremo tra un attimo, nel centro destra risale la tensione tra PDL e Futuro e Libertà. Oggi Berlusconi è tornato a parlare del caso e allora in diretta con Andrea Viali. Buongiorno Andrea. Sì Alessio, il premier ha scherzato sulla vicenda intervenendo alla fiera del motociclo a Rho. Ho un problemino, dovrei sistemare una certa Ruby in uno di questi stand, ha ironizzato Berlusconi, che poi si è lasciato andare anche ad una battuta sugli omosessuali che fa già discutere, ma sentiamo cosa ha detto. Da sempre io conduco una attività ininterrotta di lavoro e se qualche volta mi succede di guardare in faccia una bella ragazza, meglio essere appassionati delle belle ragazze che gay. Quindi credo che dobbiate avere il massimo della tranquillità, che è un governo che ha ancora una maggioranza, che intende governare fino alla fine della legislatura. Berlusconi dunque è fiducioso sulla tenuta della maggioranza, maggioranza dove comunque i nervi restano ancora tesi dopo l'ultimatum del PDL che ieri, lo ricordiamo, ha chiesto a Futuro e Libertà, ai finiani, quindi di confermare l'appoggio al governo o di avere il coraggio di aprire la crisi. Questo, ma intanto arrivano le prime reazioni polemiche per la battuta di Berlusconi, abbiamo sentito sugli omosessuali. Berlusconi vive ancora nell'era delle discriminazioni razziali, sessuali, etniche e religiose. Il posto ideale per lui non è Palazzo Chigi ma una bettola di periferia, sostiene Di Pietro. È penoso, ogni sua parola è ormai un insulto, se ne vada quanto prima, aggiunge la Democratica Turco. Il premier si vergogni, dice infine l'arcigay. Per ora è tutto. Grazie Andrea Viali. E il nostro sondaggio di oggi era dedicato proprio al quadro politico. Vi chiedevamo, in caso di crisi, secondo voi ci vorrà il governo tecnico o ci vorranno le elezioni? Queste le vostre risposte. Elezioni per il 48%, governo tecnico quindi ha prevalso leggermente con il 52% dei vostri voti. E come dicevamo in apertura, il giudizio di Standard & Poor's sui conti pubblici italiani ha confermato il rating dell'Italia ad A+, con prospettive stabili, comunicato poco fa l'agenzia di rating, e però le prospettive potrebbero subire una pressione al ribasso se l'instabilità politica, e questo è il punto importante, dovesse impedire l'implementazione del programma corrente o se il governo non riuscisse, dice Standard & Poor's, a fare ulteriori robusti aggiustamenti per raggiungere gli obiettivi finanziari. E come dicevamo, mentre a Milano prosegue l'inchiesta sul caso Ruby, c'è un'altra inchiesta che riguarda un giro di escort che parte da Palermo sulla base delle rivelazioni di una ragazza Perla Genovesi che ha parlato di festini ad Arcore. Nel capoluogo oggi vertice dei magistrati per valutare se collegare questa inchiesta a quella milanese, e allora cerchiamo di capirne di più con Nino Amadore da Palermo. Buongiorno Nino. Sì, buongiorno a tutti. Saranno i magistrati di Milano a doversi occupare anche di questa vicenda. Al termine di un vertice che è stato, di una riunione che c'è stata stamattina in procura, il procuratore Francesco Messineo ha comunicato che stanno per essere mandati tutti gli atti istruttori a Milano, quindi al Tribunale di Milano. Gli atti riguardano, come si ricorderà, Nadia, il racconto che Nadia avrebbe fatto per la Genovesi Nadia è una escort ventottenne che avrebbe partecipato a festini a base di droga e sesso nell'entourage con uomini e con persone dell'entourage del Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Ma diciamo sul racconto, sulle notizie che sono comparse oggi sui giornali, sul contenuto dei verbali di Perla Genovesi, noi abbiamo sentito l'avvocato di Perla Genovesi, che è una collaboratrice di giustizia che è stata arrestata per droga, l'avvocato Monica Genovese. Sentiamo cosa ci ha detto l'avvocato. Chiaramente noi risponderemo innanzi alle sedi più opportune dell'autorità giudiziaria dei fatti dichiarati, sia come commessi alla mia assistita, sia come testimone di fatti da altri realizzati. Tuttavia chiaramente non siamo oggi né vogliamo assolutamente dare ulteriore spazio a questa anomala diffusione del contenuto di dichiarazioni, ripeto che non sono state oggetto assolutamente di discovery processuale e quindi che soltanto in maniera confusa e anche in qualche modo anomala sono oggi all'attenzione dei giornali e dei mass media. E con la voce dell'avvocato Genovesi salutiamo Nino Amadore e chiudiamo qua questa prima parte sul quadro politico della giornata. Ci sono altre vicende che inquietano in queste ore, parliamo del Veneto dove ci sono stati fortissimi allagamenti, la situazione sta forse rientrando sotto controllo in Toscana, ma lì ci sono state 3 vittime. Allora facciamo il quadro della giornata da questo punto di vista con Laura Bettini. Buongiorno, sì, come dicevi fa ancora paura la situazione in Veneto in questo momento, in particolare sotto esame c'è il Livenza in provincia di Treviso. Si comincia invece a tirare un sospiro di sollievo a Padova, dove l'onda di piena sta passando senza gravi danni alla città, anche se sono stati numerosi gli allagamenti e numerose le famiglie sfollate in tutta la provincia. Migliaia invece gli sfollati ieri nel Veronese e anche nel Vicentino, dove resta tuttora disperso un 75enne. La stessa città di Venezia, ricordiamo, è stata per un terzo allagata ed oggi proprio a Vicenza è arrivato il capo della Protezione Civile, Bertolaso. Una situazione molto difficile, soprattutto per quello che riguarda la viabilità e alcuni comuni che sono quasi isolati per quella che è la presenza dell'acqua nelle strade. Ma è tutto assolutamente sotto controllo, ho visto una imponente presenza di tutti i nostri mezzi tirato l'esercito, sia in provincia di Verona che qui a Vicenza. Abbiamo chiesto l'intervento dell'esercito ieri sera, ho parlato col ministro della difesa e con tutti i miei colleghi delle forze armate, sono arrivati immediatamente, già stamattina alle 5 erano qui a Vicenza, a Verona stavano già nelle zone interessate dalle 19. Ci sono circa 400 militari, oltre a circa 400 vigili del fuoco e un migliaio di volontari. Mi pare che la risposta sia stata immediata. Adesso vedremo sia quali sono state le cause e sia quali sono le misure da mettere in pratica immediatamente. Sulla gravità della situazione Achille Variati, che è il sindaco di Vicenza. La città è in ginocchio perché la città ha fatto fronte solo con le proprie risorse ieri, siamo riusciti a far sì che non ci fosse un blackout generale, però adesso Vicenza ha bisogno dello Stato e quindi ho chiesto l'intervento dell'esercito. E sull'esercito, come abbiamo sentito dire da Bertolaso, l'intervento è stato accordato. In Toscana, dove ieri le frane hanno ucciso 3 persone, si comincia adesso a ragionare sugli stanziamenti possibili per la messa in sicurezza del territorio. Il giorno dopo le frane che hanno sconvolto le frazioni collinari vicino Mazzi e ucciso 3 persone, l'allarme meteo in Toscana è sempre alto. Le zone collinari del Candia sono sempre monitorate per possibili ulteriori smottamenti provocati dalle abbondanti piogge, ben 220 mm in 9 ore. Sotto controllo anche il lago di Massaciuccoli a rischio di esondazione, il fiume Serchio e i principali corsi d'acqua nelle province di Pistoia, Massa e Carrara, Lucca e Pisa. Al lavoro numerosi drover e centinaia gli interventi dei vigili del fuoco, strade scantinate completamente invasi dall'acqua, inagibile il sotto passo della stazione ferroviaria di Viareggio, il viale dei Tigli chiuso al traffico per alcuni alberi pericolanti. E ancora allerta nelle zone collinari della Versilia, in particolare a Stazzema, dove il crollo di alcuni alberi ha interrotto le linee telefoniche. Smottamenti anche a Camaiore e Massarosa. Sono oltre 50 le famiglie evacuate nelle frazioni più a rischio. Intanto il presidente della Giunta della Toscana, Enrico Rossi, annuncia che a novembre sarà firmato un accordo di programma col Ministero dell'Ambiente per finanziare interventi per 126 milioni di euro per la messa in sicurezza del territorio necessario dopo le alluvioni che da dicembre dell'anno scorso hanno messo in ginocchio numerose zone della Toscana. Ubaldo Cianciulli, GR24, Il Sole 24 Ore, Firenze. Sulla tragedia di ieri in provincia di Massa, le agenzie battono adesso questa notizia: disastro colposo, omicidio colposo plurimo, sono le ipotesi di reato per le quali indaga la procura di Massa in seguito alle frane che hanno ucciso, come dicevamo, tre persone. Veneto e Toscana sono le regioni travolte dal maltempo in queste ultime ore, ma tutto il territorio italiano è a rischio, sottolineano gli esperti. Nell'ultimo rapporto pubblicato a ottobre, il Consiglio Nazionale dei Geologi ribadiva ad esempio che 6 milioni di italiani vivono in territori ad elevato rischio idrogeologico. Antonio Di Paola, presidente del Consiglio dei Geologi. Tutte le regioni italiane sono esposte a questo rischio, e questo per una ragione intrinseca assolutamente ineludibile, data dalla conformazione e dalle caratteristiche geologiche che compongono il nostro territorio. Su cui poi si innestano però altri due problemi, che sono quelli della cementificazione e della mancata manutenzione, no? Certamente, questi sono i due ulteriori parametri che poi trasformano questa pericolosità diffusa in rischio autentico. Il presidente della regione Toscana chiede un piano nazionale di finanziamenti e prevenzione. Perché non c'è un piano? Ormai diciamo che la mappatura delle aree a rischio in Italia è un dato di fatto. Questi piani esistono, queste mappature esistono per il rischio sismico e per il rischio da frana. Mancano le risorse. Il recente stanziamento di 1.450 milioni certamente va a coprire qualche punto isolato dei tanti a rischio in Italia, ma è stato valutato in 40 miliardi di euro il costo per risanare almeno le aree a maggior rischio. Bisognerebbe creare quindi delle priorità. Grazie dunque a Laura Bettini per questa pagina sulla situazione maltempo, e vi ricordo che al termine del giornale radio alle 13.30 in Italia in controluce torneremo sull'argomento e sui numeri del disastro idrogeologico italiano con un approfondimento che vi riproponiamo di Anna Migliorati. C'è un altro fronte sempre di crisi in questi giorni che riguarda i rifiuti in Campania. Ebbene, le forze dell'ordine sono tornate di nuovo a scontrarsi con i manifestanti a Taverna del Re, dove da alcuni giorni c'è un presidio per impedire il transito degli autocompattatori diretti al sito. La polizia ha effettuato poco fa un'operazione di alleggerimento per consentire il passaggio dei mezzi diretti al sito. Dinanzi ai camion ci sono donne, giovani manifestanti che chiedono agli autocompattatori di tornare indietro. I mezzi di servizio sono scortati da un ingente schieramento delle forze dell'ordine, e per il momento questa è la situazione. Se ci saranno novità ci collegheremo anche con la Campania. Adesso alleggeriamo perché parliamo di calcio. Stasera è una serata Champions, torna l'Inter che se la vede col Tottenham. Tre punti per archiviare il discorso qualificazione e concentrarsi poi su corsa scudetto, mondiale per club e recupero infortunati. Rafa Benitez sbarca a Londra con un progetto ben chiaro in testa. Difficile che il Tottenham sia in vena di regali come all'andata a San Siro, quando la quaterna nerazzurra chiuse la gara nel primo tempo, prima della splendida tripletta di Gareth Bale nella ripresa. E allora ecco che peserà non poco il contributo che potranno dare anche i rientranti Milito e Pandev, quest'ultimo probabile titolare. In porta il 35enne Castellazzi esordirà in Champions al posto di Julio Cesar, infortunato. Muntari sarà il vice cambiasso. Ma al netto di presenze e assenze, quel che è sicuro è che per Benitez la sfida del White Hart Lane è solo un passaggio obbligato verso i veri obiettivi della sua Inter post-murignana. Tutti vogliamo vincere, i giocatori lo sanno, che è importante vincere e essere qualificati. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. GR24, ben ritrovati. Questi titoli di oggi: Festini ad Arcore, nuova inchiesta a Palermo, vertice in procura, Berlusconi, intanto meglio le ragazze che essere gay, poi se la prende di nuovo coi giornali. Sul maltempo Bertolaso è in Veneto, allagamenti nel Padovano, oltre 1.000 gli sfollati. E negli Stati Uniti oggi è il giorno della verità, Obama deve fronteggiare la riscossa dei repubblicani. A Napoli rifiuti, ancora scontri a Taverna del Re tra manifestanti e forze dell'ordine. In Sardegna ha raggiunto un accordo tra il Movimento dei Pastori e la Regione. E allora partiamo proprio da quest'ultima notizia, una lunga trattativa, 9 ore, e poi il Movimento dei Pastori e la Regione Autonoma Sarda hanno trovato un accordo che prevede il rilancio del lavoro nelle campagne. Cerchiamo di capire di più di che cosa si tratta con il leader del Movimento Pastori Sardi, Felice Floris, a cui diamo il buongiorno e il benvenuto. Floris. Buongiorno a voi. Allora, che cosa chiedevate, che cosa avete ottenuto? Ma la nostra era una piattaforma di largo respiro, prevedeva interventi immediati per dare ristoro alle aziende in crisi e poi tracciare, diciamo, un percorso duraturo nella riorganizzazione dell'intero comparto. Quante sono le aziende in crisi in Sardegna da questo punto di vista? Sono oltre 17.000. Quindi parliamo di 17.000 imprese, prego. Impresa, sì. E dunque? E dunque stanotte, stamattina all'alba abbiamo raggiunto un accordo che è durato quasi 4 mesi di grandi iniziative di mobilitazione. Alla fine, diciamo così, si è arrivati a questa chiusura creando soddisfazioni, diciamo, da entrambi le parti. Ma che cosa prevede l'accordo, Floris? L'accordo prevede intanto un risultato con l'utilizzo di questa de minimis ordinaria per un ristoro immediato all'azienda, che sono questi 2.500 euro per 3 anni, ma soprattutto la cosa importante è che si ritorna a parlare di prezzo del latte ovino in Sardegna, che ormai era scivolato sui 60 centesimi e con la prospettiva di precipitare ancora. Possiamo dire che questo accordo si ripartirà con un prezzo che va dai 75 agli 85 centesimi in acconto. Questa è la cosa importante, questo che dà spessore a questa chiusura di questa trattativa. Possiamo dire che con questo accordo il lavoro dei pastori, queste quasi 20.000 imprese in Sardegna, è stato salvato e voi siete soddisfatti, insomma. Quindi sì, non più proteste. Chiaramente che quando si chiude l'accordo non si chiude, però siamo contenti del risultato, anche perché l'accordo non finisce qua con questo prezzo di latte, ma finisce con una riorganizzazione, diciamo, di tutta la struttura. La filiera. Va bene, grazie. E noi ringraziamo Felice Floris, leader del Movimento dei Pastori Sardi. Abbiamo appena sentito la storia di questa lunga trattativa che si è conclusa oggi, stanotte, per la verità, in Sardegna. Adesso andiamo all'estero. Per tutt'altro quadro è quello delle elezioni di midterm negli Stati Uniti, il giorno del giudizio per Barack Obama. Obama, i democratici sono sfavoriti nei sondaggi, nel rispetto però di una consuetudine politica che vede penalizzato il partito del presidente a metà mandato. Facciamo il punto con Gigi Donelli. Sì, buongiorno dalla Florida, qui ad Orlando, come nel resto degli stati dell'est, i seggi si sono aperti circa un'ora fa, anche se molti americani hanno già votato utilizzando il voto elettronico ancora ieri e nei giorni precedenti. Ma insomma, oggi è il grande giorno, il giorno delle sfide, il giorno in cui questo Stato misura la capacità del Tea Party di affermarsi come realtà consolidata. Il grande candidato da seguire in questo senso è il Marco Rubio, l'uomo che sta spostando completamente gli equilibri politici qui della Florida. Ieri sera ultimi grandi tentativi per richiamare alle urne gli elettori, infatti l'astensione è uno dei grandi rischi che pesa su queste elezioni, soprattutto per i democratici. Proprio per questo ad Orlando è arrivato anche Bill Clinton. Bill Clinton ha arringato una folla di alcune centinaia di persone, in realtà non moltissime, a salutarlo, una folla a cui ha chiesto di credere ancora nel progetto del presidente Barack Obama. Tutto questo naturalmente senza dimenticare i temi dell'aerospaziale, quindi la Space Coast, appunto, molto importanti. Oggi conto alla rovescia, domani infatti è previsto il lancio, l'ultimo, dello Shuttle Discovery, che completa la costruzione della Stazione Spaziale Internazionale, che proprio oggi compie 10 anni di attività in orbita. E per ora è tutto dalla Florida, restituisco la linea allo studio. Grazie dunque a Gigi Donelli dall'America. E altro fronte internazionale, quello iraniano. Domani, notizia di oggi, potrebbe essere eseguita la condanna a morte di Sakineh, per la quale il mondo intero è rimasto col fiato sospeso in questi mesi. L'iraniana, lo ricordiamo, condannata alla lapidazione per adulterio e complicità nell'omicidio del marito. Il commento di Alberto Negri. Avvolta in un sudario bianco, la condannata alla lapidazione non deve morire subito. La legge iraniana prevede che le pietre non devono essere così grandi da far morire il condannato al solo lancio di una o due di esse. Inoltre non devono essere così piccole da non poter essere definite come pietre. Questo e il destino che potrebbe attendere domani Sakineh. Noi non abbiamo pietre ma parole, e una soltanto può definire questa legge iraniana: una barbarie indicibile. Così come barbara per noi europei è diventata comunque la pena di morte, una convinzione che ci porta a protestare ogni volta che uno Stato si arroghi il diritto di mettere fine alla vita di una persona. Ancora più inaccettabile quanto ha dichiarato qui a Roma la scorsa settimana il vice ministro degli esteri iraniano. Il caso Sakineh, ha detto, è soltanto una bolla mediatica. Ma non c'è soltanto l'Iran che la pensa così. La compagnia è vasta, dalla Nigeria all'Arabia Saudita, al Sudan, al Pakistan, alla Somalia delle corti islamiche. È ora di dire basta, perché la sovranità di uno Stato, per quanto rispettabile, non può andare oltre il sopportabile. Così dunque il duro commento di Alberto Negri sulla vicenda iraniana. Adesso restiamo all'estero per una storia di solidarietà tra l'Italia e Haiti. Jodia, nous tous ces haïtiens nous. Haïti pap jam mouri. Nous pral campé, nous pral bay li force. Haïti! Luigi Martino era il presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano. È scomparso lo scorso gennaio, pochi giorni dopo il terremoto ad Haiti. Prima di partire, chiese che i suoi colleghi si impegnassero concretamente per aiutare gli haitiani. Nacque così il progetto Milano per Haiti dell'Ordine dei Commercialisti, impegnato a fianco della Fondazione Francesca Rava nella costruzione del reparto di fisioterapia e applicazione protesi presso la Casa dei Piccoli Angeli della capitale Port-au-Prince. Vittoria Alfieri, commercialista milanese, ha ascoltato le parole di Martino. È partita ieri per l'arcipelago caraibico. Con lei la macchina per costruire le protesi, comprata grazie alle donazioni dell'Ordine. Consegnerà anche la targa intitolata al presidente Martino, a cui verrà dedicato il reparto di applicazione protesi dell'ospedale, come ci spiegava qualche ora prima di partire. Io parto con Francesca Turci e Marco Avaro, che è responsabile tecnico per l'applicazione delle protesi. I bambini comunque hanno bisogno di, crescendo, di protesi sempre nuove, per cui sono riusciti con l'organizzazione ad avere la macchina che costruisce le protesi in loco. Da giorni però un'epidemia di colera sta piegando Haiti. Mi spaventa meno il colera della reazione emotiva che posso avere vedendo la situazione. Gli occhi di questi bambini ti danno l'impulso per continuare, perché nonostante tutto quei bambini ti sorridono. Ambra Notari, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed ora in chiusura parliamo di cinema con il nostro quotidiano speciale sul Festival del Film di Roma, la nostra inviata Marta Cagnola. Speciale Festival del Cinema di Roma. Buongiorno da Marta Cagnola. Il Festival Internazionale del Film di Roma si risveglia dopo la grande notte di Bruce Springsteen. Prima il red carpet sotto la pioggia tra gli irriducibili fan, poi la proiezione del documentario The Promise di Tom Zinni, che racconta la nascita nel 1978 dell'album Darkness on the Edge of Town. Quindi il boss è salito sul palco della Sala Sinopoli dell'Auditorium e ha parlato di sé, dei suoi difetti, con grande ironia, della sua musica, con grande serietà. You can tell from the film that I suffer from obsessive-compulsive disorder. Come si capisce dal film, sono affetto da manie ossessivo-compulsive, racconta Springsteen. Ma allora, ricorda, eravamo giovani e volevamo fare un disco che catturasse davvero lo spirito del tempo, che fosse essenziale. Si trattava di fare tanta musica e attendere il momento giusto. Si trattava di lavorare e di arrivare anche inaspettatamente al risultato desiderato. Ma ieri a Roma un altro grande evento, l'anteprima italiana di The Social Network, commedia irresistibile che racconta la vera storia del fondatore di Facebook. Jesse Eisenberg è un perfetto Mark Zuckerberg. I think his reaction is probably very complicated to the movie. He took all of his employees to see the movie on October 1st. La sua reazione al film è stata, credo, piuttosto complicata, ha raccontato Jesse. Mark ha svelato. Ha persino affittato un'intera sala cinematografica e ha portato tutti i suoi dipendenti a vedere il film. Tra loro anche mio cugino, al quale ha detto: tuo cugino ha fatto un ottimo lavoro. Anche temi d'attualità però al Festival di Roma, camorra e traffico di rifiuti nel film Una vita tranquilla. La storia di Rosario, cuoco italiano in Germania con un passato malavitoso, il regista Claudio Cupellini. Quando abbiamo iniziato poi a scrivere la sceneggiatura era in realtà il 2005, è un problema che si ripropone ciclicamente dalle nostre parti e si pensava risolto. In realtà questo tema, quello diciamo dei rifiuti, serve di più a formare la cornice criminosa del film, quella del noir. All'interno dopo della storia ci sono tante cose alle quali tutti noi, a partire da me, ma passando per Tony Servillo, Marco D'Amore, Francesco Di Leva, gli attori principali di questo film, sentivano che sono appunto quelli della duplicità, quelli del passato, come dicevo, che ritorna, di un rapporto mai realmente risolto tra un padre e un figlio. E dal Festival Internazionale del Film di Roma è tutto. È tutto anche per questa edizione del Giornale Radio. Restate con noi, tra poco Italia in controluce e a seguire America 24 in una giornata cruciale per gli Stati Uniti, perché c'è il voto del midterm e, come avete appena sentito dal nostro inviato, si sono appena aperti i seggi sulla costa occidentale. Tutto, buona giornata. GR24, il sole 24 ore. Direttore Fabio Tamburini.